just for the destiny of love. I adore to see you smile. Smile. Hold me tight when I look into your eyes. Stay with me forever. C'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore. E io rimango lì ad ascoltare. Don't count on me, I engineer. take a pain. You see, I engineer. Don't count on me. I engineer. On every move we make from here, I take the lead. You take the pain. You see, I engineer. Oggi gli scusate, sono sempre io. Volevo fare i miei soliti saluti a mia zia di Milano e a mio zio di Torino, che sono, ci voglio bene. E poi volevo anche farti i complimenti per il programma che non te l'ho mai fatti, però mi piace, sei un grande, veramente. Ciao e grazie di tutto, ciao ciao. Ma se ti vedo la voglia mi si toglie. antimusicale. Oh Gigi, è un po' che ti cerco, non mi alzi mai. Ho provato qua sul programma che so che ti becco tutti i giorni. Volevo invitarti una sera a cena, se c'hai piacere. Ci andiamo io e te insieme e ci divertiamo un attimo, così parliamo un po' di tutto, Ti chiamo io poi domani e mi dici. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Altro fiorisce. Un disco finisce, l'altro fiorisce. Oh. se ti senti peggiore di tutti, gira con amici più brutti. Gigi, mi raccomando, non ti dimenticare di me che mi hai promesso la compilation. Ancora ti dimentichi, io so, domani passo a prenderla da te. Ciao, a dopo, ciao. Ti chiamo io, ciao. Ti chiamo io, ciao. Ma poi a quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Los 40 mi fomentas. Vai Fabiolas. E quando